Ma credo che in questo momento l'unica persona che possa dare una risposta precisa a questa domanda è Sonia Gandhi. In realtà Sonia si è incontrato con i membri del partito del congresso e ha comunicato questa sua decisione, ma non ha chiaramente spiegato il perché di questa decisione. Ha detto semplicemente due cose. Una è che obbediva alla propria voce interna, inner voice, e poi ha anche detto che in realtà non era mai stata sua intenzione quella di diventare primo ministro, che quindi, questo non l'ha detto ma è implicito, fin dall'inizio la sua scelta è stata quella di condurre il congresso alla vittoria, ma poi di delegare qualcun altro, e questo qualcun altro probabilmente sarà il dottor Manmohan Singh, che è un tecnocrate ed è già stato ministro delle finanze nel precedente governo del congresso, come colui che governerà l'India. Ora, qui le domande da porsi sono, una che bisogna porsi è questa: è Sonia Gandhi veramente seria nel prendere questa decisione? In altre parole, si atterrà a questa decisione o si tratta di una manovra politica? Perché pongo questa domanda? Perché effettivamente nel momento in cui Sonia ha dichiarato che non sarà primo ministro, questo ha comportato reazioni quasi di disperazione da parte di dei membri del partito e reazioni di sconcerto da parte degli alleati. Quindi potrebbe semplicemente trattarsi di una mossa politica volta a rafforzare la propria posizione. Perché una mossa politica del genere? Perché proprio in questo periodo le forze dell'induismo politico, cioè le forze che fanno capo allo sconfitto Bharatiya Janata Party, il partito che è uscito sconfitto dalle elezioni, queste forze si stavano preparando a lanciare una campagna di massa contro Sonia Gandhi, con il solito slogan, la solita motivazione che Sonia Gandhi non sarebbe una vera indiana. Ecco, allora da questo punto di vista rassegnare le proprie dimissioni in modo tale da provocare un contraccolpo a livello di opinione pubblica che in un certo modo la induca a ritirare le dimissioni, ecco, questo potrebbe essere una mossa politica volta a rafforzare la posizione di Sonia Gandhi. E questo è il suo obiettivo? Non possiamo dirlo, lo potremo dire solo a posteriori. Supponiamo invece che effettivamente Sonia Gandhi sia seria nella propria decisione, che questa sia effettivamente come ha insistito con, mi sembra con molta serietà e molta forza, a giudicare dai rapporti delle agenzie e dei giornali che arrivano in questo momento dall'India. Supponiamo appunto che abbia veramente intenzione di non presentarsi come primo ministro, per meglio dire che questa intenzione che ha già manifestato sia mantenuta. Allora qui le possibilità sono due. Una è che abbia deciso di rinunciare in questo momento, dopo aver vinto le elezioni. Allora se è così, io direi che è meglio così, mi spiego. Se questa decisione arriva ora, dopo la vittoria alle elezioni, significa che Sonia Gandhi non si sente in grado di governare. Non si sente in grado di governare perché fare il primo ministro dell'India per una persona che non ha mai governato neppure un comune grande come Crema è qualcosa di difficile e di complesso. A parte questo, può anche darsi che, come alcuni affermano, Sonia Gandhi abbia deciso di rinunciare perché teme per la propria incolumità. Cioè, e questo non è peraltro un'argomentazione da prendere alla leggera. Il marito di Sonia Gandhi è morto assassinato, la suocera di Sonia Gandhi è pure morta assassinata per ragioni politiche. Ecco, ma in ogni caso, se la motivazione di ritirarsi è stata presa dopo la vittoria elettorale, denota in ultima analisi o come dire, il fatto che Sonia Gandhi non si sente all'altezza di governare, o il fatto che effettivamente non è all'altezza di governare. Ecco, l'alternativa qual è? Che effettivamente Sonia Gandhi abbia preso questa decisione prima di condurre il proprio partito alla vittoria, cioè che effettivamente la sua strategia sia stata fin dall'inizio quella di portare il partito alla vittoria e poi ritirarsi. Ecco. In questo caso perché ha fatto una scelta di questo genere? Ma qui è un po' difficile da spiegare, però la possibile spiegazione è che Sonia Gandhi abbia voluto prima di tutto dare nuova vita a questo partito del congresso. Ecco, non dimentichiamo che quando Sonia Gandhi è, per così dire, scesa in campo alla fine del 97, sembrava che effettivamente il partito del congresso fosse sull'orlo della disintegrazione e della scomparsa. Bene o male, Sonia Gandhi l'ha tenuto insieme questo partito e alla fine l'ha portato alla vittoria. Allora, può darsi che effettivamente questa donna che si sente erede della grande famiglia dei Nehru Gandhi e che crede in certi valori base, in particolare crede nel laicismo, abbia deciso di come dire, orientare la propria azione politica in modo da semplicemente riportare il partito a governare. E a governare da posizioni laiche, perché effettivamente l'unico elemento forte e chiaro dell'ideologia di Sonia Gandhi è sempre stato quello della difesa del laicismo. Ecco, allora Sonia Gandhi ha voluto compiere un certo tipo di missione e a questo punto passa la mano a altri leader che abbiano maggiori capacità di governare di quanto lei abbia. Questa è una possibile spiegazione. Sta di fatto, ripeto, che in questo momento credo che ci siano ben poche persone che siano in grado di spiegare il perché e il come Sonia Gandhi ha preso questa decisione. E che per capire veramente che cosa è successo e che cosa sta succedendo dovremmo, se non altro, aspettare un po' di tempo.